Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Oggi le feste sono finite per tutti, perlomeno nell'immaginario comune, e oggi si ritorna alla vita quotidiana. E noi vediamo la possibilità di un'ultima sfumata, di un ultimo momento in cui si può mantenere ancora l'identità e l'intelligenza, la volontà e il desiderio nel luogo della festa. Qual è il miglior luogo della festa? Quello in cui liberamente può sprigionarsi la fantasia, nel luogo comune in cui noi ci incontriamo accompagnati e corroborati da quella che è la materia prima dei nostri sogni. Oggi ancora ci dedicheremo alla fantasia, ma soprattutto mi piace questa mattina dedicare la puntata a un'amica che ancora aspetto un po' ad annunciarvi, che mi sta dando molti problemi. Io penso che un giorno finirò in porchetta, finirò impalato, finirò trasformato in salame per le ire degli animalisti che ho suscitato in una meravigliosa trasmissione in cui assieme a un'amica parlammo della meraviglia, dell'uccisione e della resurrezione del maiale. Questa signora, che in realtà è l'autrice italiana più tradotta e più letta all'estero, forse dopo Camilleri, e questo dice tutto, il fatto che sia così poco sulla bocca di tutti, così poco nei salotti televisivi, così poco nei luoghi che contano, così poco nei premi letterari in cui le tette valgono molto e forse il cervello un po' meno. Questa signora è Silvana De Mari. Silvana De Mari, buongiorno innanzitutto. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Questa mattina, maneggiando in maniera intrepida, come sempre facciamo, la nostra avversione per il luogo comune, parleremo di una deriva della narrativa non soltanto per ragazzi, non soltanto per giovani, ma che affascina, diciamo che è transgenerazionale, che in maniera forse un po' frettolosa, ma il termine rende l'idea e fa capire subito, si viene definita fantasy. Quella che oggi viene chiamata fantasy, ai tempi in cui io amavo avere le illusioni dell'adolescenza, era narrativa eretica. Io ricordo che leggere Il Signore degli Anelli negli anni 70 e tenerlo sotto braccio e andarci magari a scuola significava essere preso a pietrate in testa, perché veniva considerato qualcosa che apparteneva a una visione della vita assolutamente reazionaria, assolutamente antipopolare e via dicendo. Oggi i libri di fantasy, ciò che raccontano il mondo eterno del mito, delle realtà intermedie fra il mondo degli uomini e il mondo dell'assoluto, sono il pane quotidiano, il nutrimento quotidiano di una gran parte della popolazione mondiale, ma soprattutto sono anche un grande business. In particolare ho in mano L'ultima profezia del mondo degli uomini, che è l'ultimo romanzo edito per Fanucci, della tetralogia di Silvana De Mari, che è un grosso volumone. Rispetto a questo mondo che ho appena accennato, Silvana, tu in realtà a quale specifiche fonti hai attinto per fare i tuoi libri? Io attingo a due fonti per fare i miei libri, che sono due libri che io spesso rileggo, e sono Il Signore degli Anelli e Se questo è un uomo. E può sembrare una scelta antitetica, ma non lo è affatto. La letteratura fantastica, da sempre, è il contenitore dentro cui noi mettiamo i mostri. Quando c'è qualcosa di troppo terribile per guardarlo in faccia, noi lo nascondiamo nella letteratura fantastica. In questa maniera, protetto dal lieto fine dell'ambientazione fantastica, riusciamo a guardarlo in faccia. Nelle grandi fiabe classiche noi abbiamo messo La persecuzione del bambino, in Biancaneve il bambino è ucciso, in Cenerentola massacrato di lavoro ma anche torturato, in Pelle d'asino c'è l'incesto. Noi abbiamo messo nella letteratura fantasy l'orrore dei totalitarismi del XX secolo. Se questo è un uomo, Il Signore degli Anelli narrano in realtà la stessa storia. Se questo è un uomo narra quello che veramente è successo. Il Signore degli Anelli narra quello che avrebbe dovuto succedere, cioè che la cavalleria arrivasse prima del massacro. La letteratura fantasy è spesso considerata una letteratura per bambini e per semideficienti. Il lettore fantasy non vince mai il premio Strega, il premio Nobel non ne parliamo nemmeno. Non so se avete presente Aldo, Giovanni e Giacomo quando con i cornoni verso il basso fanno il suono scronco figlio di scronco. Anche il genere fantasy più o meno è quella roba lì. In realtà la letteratura fantasy fonde due generi precedenti, il poema epico e la fiaba. Ed è il poema epico che contiene valori maschili. La lealtà, il coraggio, la cavalleria mischia alla fiaba che contiene valori femminili, l'amore di un uomo verso la donna, l'amore della madre verso il bambino, l'attaccamento del bambino ai genitori. Questi due generi si fondono e nasce il fantasy, che contiene a sua volta dei mostri terribili, che sono la paura della perdita del mondo. Noi continuiamo a aver paura della perdita del mondo. Biancaneve, povera creatura, aveva paura di essere ammazzata lei. Non aveva paura che il mondo all'ignoto finisse. Mentre nel 1941, quando le armate di Hitler vincono su tutti i fronti, non sono le armate di Sauron. Chi sono gli orchi? Gli orchi sono coloro che uccidono volontariamente il bambino e dopo averlo ucciso festeggiano. Quindi, per poter avere la definizione di orco, noi dobbiamo avere l'ordine scritto di sterminare il bambino. Abbiamo sempre avuto gente che ammazzava i bambini, d'accordo, ma erano alla fine di battaglia, erano sporchi di sangue, erano talmente carichi di odio e adrenalina per riuscire a reggere alla paura e al dolore, mentre nel XX secolo noi abbiamo qualcosa di diverso. L'ordine è dato in maniera scritta, viene eseguito e quando viene eseguito noi possiamo festeggiare. Il XX secolo è il secolo dei genocidi. Se noi non capiamo questo, non capiamo perché esiste il fantasy. Sentiamo un attimo un stralcio tratto proprio dall'ultima profezia e poi andiamo avanti. La piana si aprì improvvisamente davanti a loro. Il lago Feurok rifletteva il cielo di un accecante color azzurro e raddoppiava uno strano monte, una rocca ciclopica di pietra rossa che si alzava verticale e si sfrangiava in alto in una serie di comignoli, torri, camini naturali di tufo grigio che davano l'impressione di una strana città germogliata da sola nella roccia. «Quello è il monte sacro degli orchi», disse con una voce commossa e quasi chiara il soldato Skardrail. Signore Mari, perché questo mondo costellato di cavalieri, di orchi, di immagini fantastiche che nella contemporaneità riusciamo ad allucinare in maniera molto più facile? La fantasy è tracimata dai libri, è diventata materia di film, materia di fiction, materia di videogame soprattutto. I filoni più interessanti videogame sono legati al mondo della fantasy. Tanti eroi di telefilm sono legati al mondo della fantasy. I ragazzi vestono, interpretano, si mascherano, entrano nei personaggi. Ci sono dei giochi di ruolo meravigliosi che ricordano il mondo della fantasy. Esistono maniere di giocare impersonificando gli eroi della fantasy. Poi oggi il merchandising legato alle avventure e ai libri è vastissimo. C'è un negozio meraviglioso qui a Roma, si chiama Avventura e Magia, dove vendono tutto. Ci sono le spade, i mantelli, gli elmi. Esiste la possibilità di entrare veramente nel personaggio. Ecco, qual era quella forma di ostracismo che c'è stata per cui questo mondo veniva considerato un mondo reazionario? In nome di cosa? In nome di una negazione che c'è stata sia nell'Illuminismo che nel 68, che è la negazione del Medioevo. Il fantasy sta recuperando il Medioevo. La gente non ha letto Benedetto Croce quando dice che le nostre radici sono nel Medioevo e che noi non possiamo in nessun caso rinnegarlo, ma l'ha intuito. Quando noi rinneghiamo il nostro passato, noi rischiamo di restare senza radici. È come una quercia senza radici, non vive a lungo. Che cos'è il Medioevo? Il Medioevo è un'epoca per molti versi tremenda, per altri straordinaria, dove si sono fusi quattro componenti della civiltà europea. Questi quattro componenti sono la spiritualità biblico-evangelica, la filosofia greca che noi abbiamo recuperato grazie agli amanuensi, il diritto romano che di nuovo non si è perso grazie ai monaci che copiavano. E se si fosse perso il diritto romano, la struttura dello Stato ma anche la struttura della giurisprudenza, il Medioevo sarebbe durato un millennio di più. E poi la violenza dei barbari, che in qualche maniera tutto si è fuso nel crogiolo. Se noi siamo molto alti e se noi guardiamo molto lontano è perché siamo tenuti sulle spalle dei nostri antenati. Se noi siamo più saggi, più compassionevoli dei nostri antenati è perché loro ce l'hanno permesso. È fondamentale che una civiltà non rinneghi mai il proprio passato. Quello che invece è successo già con l'Illuminismo, è successo di nuovo nel 68, è tutto quello che hanno fatto i nostri antenati era sbagliato e ignobile, da questo momento diventiamo più buoni. Per carità, diventiamo più buoni, che è sempre una cosa simpatica, più compassionevoli, ma attenzione, ce lo possiamo permettere perché alle spalle abbiamo avuto questo e se noi lo rinneghiamo siamo persi. In più, noi abbiamo perso Dio. L'Illuminismo è stato un qualcosa di straordinario, aumentato la libertà degli uomini, ma anche rinnegato gli stessi schemi del cristianesimo. L'Illuminismo non ha solo voluto dire due picconate secche a Santa Madre Chiesa, che onestamente se l'era anche cercata e non è che l'abbiamo fatto così male, ma ha voluto dire due picconate secche al cristianesimo. Il cristianesimo, indipendentemente dal fatto che noi siamo credenti o non credenti, perché è in primo luogo uno schema filosofico oltre che una religione, è l'unica religione nel mondo occidentale che aveva difeso il bambino in quanto tale, che aveva difeso la donna in quanto tale. Il poema epico, la prima parola scritta su questo continente, la parola Ira, l'ira funesta, canta mio diva, che fine fanno nell'Iliade la moglie e il figlio di Ettore? Il bambino viene ucciso, la madre viene fatta schiava. Questa è la fine del figlio e della moglie dello sconfitto. Nel cristianesimo non si può più fare, ma una volta che il cristianesimo viene sospeso, noi arriviamo ai lager e ai gulag, noi arriviamo allo sterminio degli armeni, che è la cellula madre del genocidio, che è uno sterminio di cui si parla pochissimo, in cui c'è ancora un grande senso di riservo, perché si urtano sensibilità di alleati, di amici, di persone che contemporaneamente hanno un ruolo. Parlare degli stermini di persone che non ci sono più forse è più facile. Certo, e lo sterminio degli armeni è un genocidio vero, come è un genocidio vero quello degli ebrei, come è un genocidio vero quello del Ruanda, come non è neanche lontanamente un genocidio quello degli indiani d'America, dei Maya o degli Aztechi, perché bisogna capire questo. Se io uccido un altro per rubargli la terra, è un gesto di brutalità. Il mio scopo è avere la terra, non la sua morte. Se questo tizio si arrende, la sua terra me la cede, infatti, io non lo uccido più. Nello sterminio degli armeni, i turchi si sono suicidati. Gli armeni hanno il 10% della popolazione civile, ma erano il 50% dei medici, il 50% degli ingegneri e il 60% dei professori universitari. Con la prima guerra mondiale in corso, con Churchill che stava andando a cercare di riprendersi Costantinopoli, questi si sono sterminati, i medici e gli ingegneri. È stato calcolato che se Hitler nel 1942 non avesse deciso lo sterminio degli ebrei, se quindi avesse risparmiato i treni, i soldati, i mitra, se oltretutto avesse continuato a avere nella popolazione civile i medici e gli ingegneri, i russi li avrebbero fermati. Non a Stalingrado, nemmeno sul confine russo, ma sul confine tedesco. Quindi ogni genocidio in realtà è un atto anche autodistruttivo e masochistico. È un suicidio, quindi è un atto di psicosi collettiva. Noi non abbiamo la brutalità, io uccido quello lì per rubargli il portafoglio. Non è bello, ma segue linee logiche. Lo stesso nel genocidio, noi abbiamo che la sterminio intenzionale del bambino, lo stupro etnico, non sono il libro di filosofia e Promessi sposi posati per caso sullo stesso scaffale. L'uno non è possibile senza l'altro. Lo stupro etnico non solo leva le donne al nemico che non le abbia più, ma permette lo stupro di gruppo, le linee di affiliazione al gruppo nel gruppo genocidiario, perché il genocidio è comunque straziante, faticosissimo. Quando si fa un lavoro schifoso, si va avanti sull'affiliazione al gruppo. Io non mi fermo per non mettere gli altri del gruppo nei guai. Le linee di affiliazione al gruppo sono fatte sullo stupro etnico. I due sistemi vanno pari passo. Vedremo adesso di capire quanto tutto questo, che fa parte della storia più o meno serenamente raccontata e trascritta in libri di storia, abbia dei riferimenti precisi e profondi in questa vena di letteratura. Le femmine e i maschi erano separati. Anche sul Monte Sacro le donne erano coperte. Ma c'era nei loro confronti un'indubbia cortesia, un'assoluta cavalleria. C'era ovunque una nuova gentilezza. Mancava agli orchi l'incrollabile arte del lamento in cui eccellevano gli uomini. Si muovevano nella vita con la stessa serenità dei contendenti nelle gare a ostacoli che si organizzavano nelle feste di paese. Nel mondo degli orchi, chi non era abile a fare la guerra, a concepire figli o a svolgere una qualsiasi attività che lo rendesse utile, non era necessariamente ritenuto degno di vivere. Ecco, non so se avete fatto la stessa operazione che ho fatto io in questo momento. Non a caso ho fatto parlare a Silvana De Mari di attualità, di storia, di cronaca, di qualcosa che appartiene comunque alla nostra esperienza, anche se scaglionata in vari decenni. Avete risentito una pagina del racconto di fantasy tratto dall'ultima profezia del mondo degli uomini, edito da Fanucci di Silvana De Mari, avete visto che il riferimento avviene immediato. Ecco, però qual è la chiave e il segreto, Silvana? Alcuni scrittori di fantasy, possiamo dire, sono stati profeti ciò che è accaduto, perché esistono delle profeti con tutto il beneficio dell'inventario che ha questa parola, comunque hanno visto prima degli altri dei sintomi di un malessere che poi avrà generato il vero orrore, la vera tragedia. Te invece racconti forte di una tua lettura della storia. Sì, io credo che questo sia assolutamente fondamentale e inevitabile. Noi abbiamo nel nostro cervello due parti diverse. Noi partiamo sempre dalla dualità ragione e non ragione. La ragione splende, scintilla, la non ragione spazzatura. Razionale e irrazionale. Eliminiamo il termine irrazionale, che razionale dà l'impressione di essere contrario. Ma mettiamo non razionale. Metà del nostro cervello funziona per linee razionali. È un cervello di tipo analitico ed è in grado di processare un solo pensiero alla volta. Metà del nostro cervello funziona per linee non razionali emotive, è di tipo sintetico e può processare decine di elementi alla volta. E quindi sono due sistemi diversi con cui noi abbiamo la conoscenza e sono due sistemi che si devono integrare. Le immagini che ci arrivano dettate dal nostro io intuitivo ci arrivano comunque dalla realtà che ci circonda e servono per aumentare la nostra capacità di sopravvivere. Facciamo un esempio: 10 anni prima del congresso di Norimberga, 10 anni prima che l'antisemitismo diventi ufficiale, ma noi non possiamo essere passati nel giro di 5 giorni da vai a chiedere alla signora Levi se è un uovo in più a metterli sui treni, ci deve essere stato un passaggio che il nostro io non razionale ha decifrato perfettamente. 10 anni prima, nella stessa città che aveva visto i passi del golem, un uomo immagina che dopo una notte di sogni inquieti qualcuno si svegli trasformato in scarafaggio. Kafka scrive le metamorfosi. Gregorio Sanza della metamorfosi. Kafka scrive il processo. Un uomo è condannato a morte e lui non sa l'imputazione. Kafka scrive nella colonia penale, dove a un certo punto sulla pelle del condannato viene scritto con l'acido l'imputazione, perché questo non lo sa. Kafka ha intravisto quello che sarebbe successo 10 anni dopo. Non è che l'ha capito da finalmente. È il tatuaggio del Lager che ti segna nella tua identità di destinato al forno. Non l'ha capito razionalmente. L'avesse capito sarebbe scappato lui e tutta la sua famiglia. Lui non è morto in Lager perché era morto prima di tubercolosi, ma la sorella sì. Ma in qualche maniera il suo io inconscio ha perfettamente intuito quello che sarebbe successo 10 anni dopo. Gente che si svegliava al mattino e si trovava trasformato durante la notte in scarafaggi. Gli scarafaggi sono quelli che si calpestano. Sempre nelle nostre io fantastico ci sono tracce della realtà e che ci servono per affrontarla. Nel fantasy noi abbiamo anche messo Dio e la morte, è l'ultima letteratura che parla dei grandi valori, coraggio, la realtà, la cavalleria, è l'ultima letteratura che non parla della speranza che noi ce la sfangheremo e le linee di democrazia e di empatia prevarranno su cui queste linee non ce le ha, ma nella certezza che è quello che succederà di nuovo, come sempre succede. Aveva ragione Steinbeck: le dittature vincono le battaglie ma perdono le guerre, perché non hanno la capacità di capire cosa succede nella mente degli uomini. Prima o poi tutti desiderano essere liberi, anche il carnefice si stufa di avere il mitra in mano perché gli fanno male le braccia. Ci occorre maggiore potenza, ci occorre un sacrificio, disse il bestione. La magia orca è una magia aspra. Tutto va pagato. Dobbiamo ammazzare qualcosa? Chiese Rangstrail allibito. Dobbiamo uccidere parte di noi. Ognuno dovrà sacrificare la parte di sé che più ama. Se è una dote, verrà persa per sempre. Se è qualcosa che potete fare o non fare, non potrete mai più farla. O la vita di Ariel ne sarà tranciata. Il volo, disse pronto Arduin. Quando si è provato il volo, si passa la vita a guardare il cielo per il desiderio di tornarci. Non farò e non toccherò mai più una macchina volante. La capacità di leggere nel fuoco, disse Skardrail dopo un lungo silenzio. La capacità di vedere il futuro, affermò il bestione dopo averci pensato con una smorfia sul viso. La capacità di sentire con un istante di anticipo dove passerà la cacciagione, dove colpirà il nemico, dove sta arrivando il dardo per uccidermi, disse Rangstrail. Silvana De Mari, l'ultima profezia del mondo degli uomini, Fanucci Editore. Silvana, questa tetratologia finisce, perché i cicli di fantasy a un certo punto hanno una fine. Anche Harry Potter cresce, grande, poi non voglio dire come va a finire, ha una fine, il Signore degli Anelli ha una fine. Avrà la fine anche la tua tetralogia? Onestamente sì, però dal 2004 è già scritto un epilogo, quello che poi succede 21 generazioni dopo. Il sequel sarebbe. Sì, una specie di sequel. Questa è una storia il cui sogno è nato nella mia testa negli anni 90, quando notizie tremende arrivavano dal Ruanda o dalla Bosnia. E nell'ultimo orco gli orchi attaccano e tutte le armate dei principi, dei generali e dei re vengono travolte l'una dopo l'altra. Resiste solo l'armata dei mercenari, che sono gli avanzi di galera. Sono i reietti, quelli che, a cui non si rivolge nemmeno la parola, quelli che non possono sposarsi. Comandati da questo giovanissimo capitano che non viene sconfitto mai, che un pezzo alla volta riconquista il mondo degli uomini. E nell'ultima scena lui va a chiedere al proprio padre, che in realtà, a questo punto lo scopriamo anche noi, è il marito della madre, Padre, perdonatemi, ditemi chi io chi sono. E lui gli dice la verità. Lui è nato dalle violenze degli orchi sui confini. Lui è figlio degli orchi. Ed è quello che li ha fermati. I mercenari sono nati dalle violenze degli orchi, sono i figli delle madri, le cui urla sono salite al cielo, che contrariamente a altre madri non hanno poi ucciso i loro neonati, quindi c'è nella loro storia un terrificante gesto di brutalità, ma un terrificante gesto di compassione. E come si renderà poi conto Lascar, è un doppio gesto di compassione, perché quelle madri comunque non sono state uccise, poteva andare peggio. Ma è un segno questo, Silvana, che molti eroi della fantasy o dei racconti che oggi appassionano, viene in mente anche lo stesso Harry Potter di cui parleremo, hanno in sé comunque una stigmata della parte oscura della forza, anche appunto ho citato non a caso l'eroe di Guerre Stellari, c'è sempre qualcosa comunque, una conoscenza comunque delle tenebre che contraddistingue l'eroe? Assolutamente sì, l'eroe come ognuno di noi abbiamo tutti noi dentro di noi una parte oscura che non va mai rinnegata, va conosciuta, noi siamo anche ferocia, noi siamo anche i nostri sistemi più arcaici, il sistema rettiliano, il sistema limbico, se non fossimo feroci non avremmo superato l'evoluzione, e noi la nostra ferocia non dobbiamo mai rinnegarla, perché coloro che rinnegano la loro ferocia, i cosiddetti tanto tanto tanto buoni, sono pericolosi, perché poi disprezzano gli altri esseri umani per la loro normale ferocia. Noi siamo normalmente feroci, la compassione e la ferocia devono fondersi, esattamente come devono fondersi la parte maschile di un popolo, la parte femminile. Le donne sono, e i maschi sono completamente diversi. Noi siamo più empatiche, abbiamo più neuroni a specchio, perché altrimenti lasceremmo morire i nostri neonati annegati nei loro escrementi. Mentre i maschi sono i cacciatori. Per carità di Dio, saltiamo in tronco il maiale. Cioè, non vorrei crearmi altri problemi. Anch'io ne ho avuti qualcuno. Ma nelle scimmie... No, perché è assurdo che c'è una virulenza nel salvare la vita del maiale, che sono arrivati a scrivere: meriti tu di essere trasformato in salsiccia. Era quello che stavamo dicendo. Te, Silvana De Mari, vorremmo farti affettire. Esatto, perché poi diventa un'aggressione contro gli uomini, per chi non riconosce la propria ferocia non la perdona negli altri. Torniamo alle scimmie antropomorfe. No, non andiamo da nessuna parte, adesso diamo la linea alle informazioni della borsa, poi da farti una domanda io riguardo una forma contemporanea di racconto, di fiction, che poco forse ha a che fare con la fantasy, ma attinge anche nel mondo forse del mito e della tenebra, il mito degli zombie. C'è una cosa devo dirti, ma la dico fra un istante. Ora arrivano i giorni del re. Possono essere benedetti. Questo giorno non appartiene a un uomo solo, ma a tutti. Insieme ricostruiamo questo mondo da poter condividere nei giorni di pace. Abbiamo in studio Silvana De Mari, autrice di letteratura fantasy, in particolare del suo ultimo libro, L'ultima profezia del mondo degli uomini, romanzo edito da Fanucci Editore, che è l'ultimo di una tetralogia dedicata proprio a una lettura in chiave fantasy, quindi metaforica, come stiamo capendo, ma profondamente intrisa di valori, di punti di riferimento assoluti che hanno sempre accompagnato il racconto dell'umanità. Abbiamo aperto con Il Signore degli Anelli, che anche ascoltato e riascoltato alla luce di quello che stavamo dicendo assume un significato diverso, spero anche nelle orecchie dei radioascoltatori. Certo, comunque quando chiesero a Tolkien, ci scusi signor Tolkien, di che parla il suo libro? Tolkien ha risposto: parla di Dio della morte. Come di Dio della morte parla Narnia, come di Dio della morte parla Harry Potter. Il Signore degli Anelli è la storia di un viaggio. Un mucchio di gente fa viaggi. Gli argonauti hanno fatto un viaggio, Indiana Jones fa un mucchio di viaggi. Ma i viaggi normalmente si fanno alla ricerca del tesoro. Questi il tesoro ce l'hanno già e devono distruggerlo. È fortissimo in tutto il Signore degli Anelli il senso del sacrificio. Alla fine è la morte del figlio, perché gli hobbit sono i bambini, gli hobbit sono la metafora dei bambini, infatti tutti gli parlano come fossero bambini. Piccolo hobbit a 50 anni sta rischiando la vita. L'hobbit è la metafora del bambino e loro sono gli unici che possono portare l'anello senza esserne distrutti, perché sono l'innocenza. E Frodo sacrifica se stesso, nel senso che teoricamente si salva, ma è talmente malato. Ma gli è intriso del tanto anello che si è tenuto per portare l'anello che che si ha sacrificato se stesso. Nelle cronache di Narnia è evidente il sacrificio del leone, evidente a cosa ci stiamo riferendo. Harry, non vorrei anticipare coloro che non hanno letto il libro, non hanno visto i film, ma di nuovo ci siamo con qualcuno che deve morire per poter risuscitare. Che cosa è stato il XX secolo? Sono state due terrificanti culture di morte. Il nazismo e il comunismo sovietico non sono movimenti politici. Il nazismo non è un movimento politico, è un movimento religioso, messianico e salvifico. Gott mit uns, Gott non era né l'israelita di Gesù Cristo né l'israelita Dio degli israeliti. Gott è Hitler, che non a caso ha una croce come simbolo perché sostituisce l'altra croce. L'SS in Francia, dopo che avevano finito di ammazzare gli ebrei, la prima cosa che facevano è distruggere i crocifissi nelle chiese. C'è l'altra croce. Ci sono le cattedre di mistica nazista. È una situazione dove c'è tutta una letteratura dal Mattino dei Maghi in poi di questi emissari del nazismo che andavano in giro nell'Oriente, nel Tibet, a cercare le radici delle sapienze profonde, perché in realtà Hitler cercava il Santo Graal, la pietra filosofale. Era intriso nella sua elementarità, nella forza dell'essere un dittatore assoluto, del desiderio di avere la chiave della potenza anche lui. E la chiave dell'eternità. Questi sono tutti terrorizzati dalla morte, danno la morte perché così, come il terrorista suicida, perché così hanno l'illusione di controllarla, perché in realtà chiunque non ami la vita è terrorizzato dalla morte. Sono tutti perdenti radicali, le stesse linee noi le abbiamo nei Mangiamorte, ed è geniale anche in Harry Potter, come per inciso anche la figura di Saruman del Signore degli Anelli, come a furia di guardare negli occhi il nemico ci si innamori di lui. Il popolo è solo davanti al disastro, con i suoi intellettuali che spesso sono schierati dalla parte sbagliata della barricata. Nel paese della Terra di Mezzo, la leggenda narra di Sauron, l'oscuro signore, e dell'anello che gli avrebbe dato il potere di rendere schiavo il mondo. Smarrito per secoli, è stato cercato da molti. E ora è finito nelle mani della persona più improbabile che si possa immaginare al mondo. A Sauron occorre questo anello per avvolgere la terra nell'oscurità. Cosa devo fare? L'anello deve essere distrutto. L'anello va gettato tra le fiamme del Monte Fatto. Lì c'è un essere maligno che non dorme. Le forze di Sauron già si muovono. Troveranno l'anello e uccideranno chi lo porta. L'oscuro signore è anche Voldemort, il nemico di Harry Potter. C'è questa biforcazione, questa dualità fra l'eroe bianco e l'eroe nero in entrambe le saghe. Assolutamente, infatti noi abbiamo Gandalf il bianco e dall'altra parte abbiamo Albus silente, quindi anche nei nomi c'è esattamente la stessa struttura. I Nazgûl sono non morti, come sono non morti i vampiri, adesso abbiamo Edward che è il vampiro moderato, come sono non morti gli zombie, sono tutta gente che in realtà è già morta dentro perché ha perso la sua spiritualità, quindi finge di essere viva, uccidendo chiunque trovi sulla sua strada, come è una struttura genocidiaria anche Alien o anche Terminator, che sono strutture non umane. Alien, se vi ricordate, non ha nemmeno occhi e orecchie, sono tutte strutture davanti alle quali qualsiasi non ha nemmeno un'intelligenza, è uno zombie, perché vuol solo distruggere e disseminare i propri ovuli che fanno altri mostri, basta. Sì, infatti, e davanti a Alien noi proviamo lo stesso picco verticale di adrenalina che noi proviamo davanti agli occhi del Signore degli Anelli, ma anche davanti all'SS oppure Nutella Ruanda, davanti ai macete degli aggressori, perché queste sono tutte entità genocidiarie. Qualsiasi immagine di dialogo è un delirio, qualsiasi discorso, io ho 3 premi Nobel, lui è solo un bambino, non gliene importa niente, non sono fermabili. Ecco, quello adesso è l'immagine che mi ha colpito, di cui volevo parlarti. La ricordo a mente perché è una puntata di Walking Dead che è andato in onda due settimane prima di Natale, questo telefilm della Fox che parla, è una delle tante saghe in cui il mondo è invaso dagli zombie, non si capisce perché a un certo punto cominciano ad arrivare gli zombie e i sopravvissuti cercano di darsi da fare. A un certo punto il manipolo dei sopravvissuti entra in una sorta di bunker in cui c'era uno scienziato che aveva come funzione, è rimasto solo lui, studiava il virus degli zombie. Questo scienziato fa vedere ai sopravvissuti un filmato di una radiografia, una radiografia di un cervello di una persona proprio in punto di morte, e si vede il cervello con tutta una sorta di fasci luminosi, ci vedi, questa è la vita. questo è ciò che divide l'essere umano dal cadavere. Questa luce sono le sinapsi che portano i pensieri, l'esperienza. Dentro questo brandello di luce sono anch'io, poi dirà, perché quella era la moglie, che era una grande scienziata. Nel momento esatto in cui muore, sempre in presa diretta, questa radiografia che si muove, si è movente, a un certo punto si vede che il cervello entra una massa nera. Mi presenta massa, dice che il cervello è spento, non c'è più luce, non c'è più vita, perché non c'è più ricordo, non c'è più niente dell'esperienza di questa persona. Pian piano entra in gioco il virus dello zombie, si vede che viene fuori una sorta di piccolo ragnetto luminoso alla base appunto del cervello e riattiva soltanto alcune funzioni, ma soltanto le funzioni che faranno muovere quel cadavere alla ricerca disperata di un nutrimento. Fine, cioè, non è più un uomo, non è più un uomo perché non ha più esperienza, non ha più ricordi, non ha più pensiero. Ecco, questa nuova mistica dello zombie, tu come la vedi? La vedo di nuovo come un'intuizione incredibile dovuto al nostro emisfero non razionale della realtà inoppugnabile. Tutte le emozioni umane sono contagiose. Questo in termini tecnici si dice la coscienza è un fenomeno interpersonale. Nel momento in cui mi trovo in mezzo a gente che piange, mi viene da piangere, oppure anche a gente euforica o all'odio, devo avere una forza di volontà incredibile per riuscire a non farmi contagiare. Come giustamente dice il Manzoni, come giustamente il 1984 descrive Orwell, il nostro eroe è contrario alla dittatura, ma quando si trova in mezzo agli altri in un'ondata di fanatismo, persino lui non riesce a fermarsi. Le psicosi sono contagiose, questa non è una metafora, è un'informazione tecnica. Noi ci siamo dimenticati perché esistono i neurolettici, ma se io devo restare 10 ore insieme a un paziente che non ha preso farmaci e che ha un disturbo schizofrenico di personalità, dopo le prime ore anche io sento le luci. Gli zombie sono la descrizione perfetta che le psicosi sono contagiose. Se io mi trovo con un gruppo di gente completamente fuori di testa, il massacro di Nanchino, i giapponesi entrano a Nanchino il 12 dicembre del 37, fanno 350.000 morti all'arma bianca. Sono l'esercito normale, non sono SS o Gestapo, cioè dei volontari. Quindi è gente che fino a 10 mesi prima faceva l'insegnante. Galleggiano il sangue fino alle ginocchia in quell'occasione. Esatto, non si riusciva a tenere in piedi. Davanti gente che sta cominciando a ammazzare, se io resto l'unico sano di mente e dico ragazzi fermiamoci un attimo, discutiamone, se ci mettiamo davanti a una tazza di tè stiamo meglio, quanto campo. Le psicosi sono contagiose, quando uno si trova in mezzo all'esercito di psicotici non riesce più a fermarsi, è un meccanismo quello di che difesa. Accade negli stadi molte volte, nelle piazze. Esatto, quindi la percezione dello zombie che fa altri zombie, una volta che io di fronte agli zombie non ho, io o li uccido o scappo, non ci sono altre strade. Beh, la cosa più atroce nei film di zombie è quando tu vedi tua moglie, tua madre, tuo figlio, tuo fratello zombizzato e non ti rassegna il fatto che con l'essere umano, quel simulacro che vedi, che vorresti abbracciare, se tu lo abbracci ti morde. In tutti i film di zombie c'è sempre la scena atroce, moglie che incontra il marito, madre che incontra la figlia, anche in Walking Dead c'è la madre che tiene la figlia in braccio aspettando che si risvegli, la carezza, la bacia dopo che è stata morsa uno zombie, si risveglia e zombie proprio mentre la sta per mordere gli spara in testa. Beh, questa è la cosa atroce, avere il coraggio di riconoscere che anche l'essere a cui sei legato da legami di sangue, di affetto, di amore, quando diventa zombie va soppresso. Che tutti possono diventarlo. Nel nazismo, anche nel comunismo sovietico, avevamo i figli che denunciavano i padri. Il mito del compagno Molozov durante la terrificante carestia ucraina, che è un altro dei passaggi con cui noi arriviamo ad Auschwitz, è uno dei passaggi obbligati alla carestia ucraina, perché lì è la prima volta in cui cominciamo a avere cannibalismo sul piano e dei mucchi di morti o scheletriti, o loro dicevano i gonfi per indicare la patologia da mancanza di proteine. Da lì nacque la diceria che i comunisti mangiano i bambini. Sì, in realtà era vero, perché il cannibalismo, prima di morire di fame la gente mangia i cadaveri e i bambini muoiono per primi. Parte Leon Blum e si rende conto di quello che sta succedendo, diciamo guardate qui si mangiano i bambini. Dopo di lui arrivano le commissioni invece ufficiali a cui hanno fatto vedere le false fattorie eccetera, diciamo guardate sono tutte balle, per cui l'affermazione dei pochi che avevano detto la verità è stata buttata in ridicolo, ma era veramente, stava veramente succedendo, cioè, diciamo quello. Silvana, per non essere accusati di ripercorrere e ribadire i luoghi comuni, in situazioni così drammatiche ci sono state nella storia altre epoche in cui i genitori si mangiano i bambini, è fisiologico, un momento di grande carestia, come te spiegavi, l'origine di molte favole, tu stessa ce l'hai raccontato, Hansel Gretel, sì. Pollicino, dirà il fatto che in certi momenti i primi a fare le spese della fame dei genitori sono i figli. Addirittura il bambino più piccolo. perché era quello che veniva sacrificato perché i genitori e i bambini più grandi potessero sopravvivere. E lì abbiamo lo zombie. Nella carestia ucraina, che è qualcosa di sconvolgente, abbiamo il compagno Molozov. Il compagno Molozov di 12 anni denuncia ai genitori che il padre teneva in casa un sacco di grano. Il padre viene fucilato e, secondo la leggenda sovietica, il compagno Molozov viene poi martirizzato dallo zio e da qualche altro uomo del villaggio che gli saldano i conti. E il compagno Molozov è stato terribile, perché sulla scia del compagno Molozov, questo è rappresentato anche nel 1984, non pochi sono stati i figli, con la testa piena di idiozie, che hanno denunciato i genitori. Beh, dovremmo fare una trasmissione sul filo della fantasia, tenere viva la fiamma della lietezza natalizia, però con Silvano De Mari questo vi stiamo proponendo. A tra un istante, dopo le informazioni del traffico. Ma abbiamo visto il pugnale, la strega! Se la strega conoscesse il vero significato del sacrificio, avrebbe dato una diversa interpretazione della grande magia. Se un innocente che si offre volontario viene immolato al posto di un traditore, la tavola di pietra si spezza. E così persino la morte torna sui suoi passi. Abbiamo fatto sapere della tua morte. Peter e Edmund avranno cominciato la guerra. Bisogna andare ad aiutarli. Ci andremo, ma non da soli. Pensare che io... solo qualche anno fa ho dovuto portare mio figlio maggiore a Narni, città che conosco essendo io umbro, a cercare le tracce delle cronache di Narnia. Lui la trovate comunque, anche se non ce n'è alcuna. Ecco, anche in questo caso, cronache di Narnia, la cosa fantastica per i nostri amici che tanto ci vogliono bene è che ci sono gli animali buoni e gli animali cattivi. Ci sono i bufali, i bisonti, i minotauri cattivissimi e ci sono le pantere buone e le tigri cattive o viceversa. Come mai? Perché noi abbiamo fatto questa umanizzazione che ha raggiunto il punto massimo nel film Shark, dove ci sono gli squali buoni che sono vegetariani e gli squali cattivi, mafiosi, che sono carnivori. Mangia le carote e i sedani. Sì, adesso certo. Io vorrei chiarire che l'ecologia, che non ha nulla a che fare col buonismo, ma è una scienza, ci spiega che senza i carnivori la vita non è possibile. Non entrare in questo campo perché mi hanno confutato ogni tua affermazione con lunghissime lettere che mi spiegavano il perché. Perché siamo un popolazione anche di scienziati in questo caso, quindi ogni vegetariano di cui rispetto la scelta mi ha motivato tutte le ragioni scientifiche per cui è anche giusto quello. Quindi non abbraccio nessun tipo di lettura. Beh, torniamo alle cronache di Narnia. Cosa segna in questo filone che stiamo assaporando? Le cronache di Narnia, siamo di nuovo con il sacrificio, quindi siamo assolutamente all'interno di un messaggio di lealtà, coraggio, cavalleria, il sacrificio e il recupero del cristianesimo, ma soprattutto l'assoluta assenza, beh magari assoluta assenza proprio no, insomma, della paura della morte. Perché il problema fondamentale è che chiunque può affrontare la morte se non ne ha paura, ed è molto più logico non aver paura della morte se noi abbiamo la certezza di essere una parentesi di immortalità in un fiume di immortalità. Tutto cambia, l'importante non sono le cose ma il senso che noi diamo alle cose. Tutto il senso cambia. Sono stata violentata, il mio corpo è stato violentato, mio figlio sta morendo, il corpo di mio figlio sta morendo. Tutto cambia in maniera enorme a seconda di quello che noi pensiamo della nostra eternità e di Dio e della morte. Ed è questo che è quello che è contenuto nel fantasy. Il fantasy, insisto, è la certezza che alla fine tutto avrà un senso e che alla fine tutto quello che è successo troverà un suo senso, e troverà un suo senso in un mondo di luce, questa luce che continuamente torna. Se tu vedessi la luce dove mi trovo adesso, tu non piangeresti se mi ami. La cosa fantastica del mondo di Narnia è che, come tanti altri racconti di fantasy, fa diventare naturali delle acquisizioni rispetto alla concretezza del nostro pensiero occidentale, che nessuna religione, nessuna filosofia è mai riuscita in maniera così potente a mettere in crisi. La non linearità del tempo. Fra i due tempi, fra quello del mondo dei ragazzini e il mondo dei ragazzini che vivono a Narnia, c'è soltanto un armadio. passi attraverso le pellicce di quell'armadio e cambi tempo. Esiste una porta aperta e contemporaneamente ci sono tanti altri tempi. Ma la metafisica diventa accessibile attraverso lo strumento della fantasy. Sì, esatto. Più che gli atti di fede, che sono difficili da condividere, non sempre facili perlomeno. La metafisica, anche la fisica quantistica, anche la fisica, anche il concetto della relatività di Einstein, sono tutte cose che in maniera confusa, intuitiva, sono presenti nella letteratura fantasy. Il costruttivismo, alcune parti della fisica quantistica ci dicono che il nostro cervello ha molto più potere sulla realtà esterna di quanto noi non pensiamo, e noi abbiamo la magia, e noi abbiamo il fatto che l'incantesimo verbale modifica la realtà. In qualche maniera tutti i mondi paralleli che sono presenti nella fantasy sono presenti nella fantascienza, dalle vecchie storie di Superman, che in Italia si chiamava Nembo Kid, certo. I mondi paralleli, gli albi del falco con Nembo Kid. Il fatto che contemporaneamente potrebbero esserci presenti questa realtà ed altre, in qualche maniera sono intuiti, sono rielaborati, sono resi accessibili. Ma se questa è solo una delle possibili realtà, che senso ha la disperazione? Vediamo che però questi concetti che nella fantasy sono espressi in chiave letteraria, in chiave poetica, in chiave metaforica, sono concetti che il mondo moderno, basato sulla certezza del dato concreto, ha fortemente esorcizzato, ma questo è anche il tempo della fortuna, delle televendite, degli amuleti in televisione, dei maghi turlupinatori di cui fanno pubblici processi, le Vanne Marchi, i maghi Don Nascimento che prendono le pensioni alle povere ricchette, ma non soltanto, anche ad Ana Rosi, signore e signore, che affidano milioni semplicemente a comprare un sacchetto di sale pubblicizzato in televisione che salverà loro da ogni possibile malocchio. Come lo spieghi? E nella stessa maniera con cui si spiega la medicina sciamanica e gli amuleti nel Medioevo. Funzionano, perché dov'è il potere? Beh, diciamo che funzionava al sale del mago Don Nascimento. Funziona qualsiasi roba, purché io ci creda. Attenta, a me è così. Esatto, quindi nella mia mente ha una potenza straordinaria. Lui è scappato a gambe levate con il bottino di tante persone che ci hanno creduto. Quindi ognuno di noi può creare il proprio amuleto, gratis, che funziona esattamente. È un qualsiasi oggetto a cui è legato qualcosa che amo. Un oggetto che mi ha regalato una persona che amo, un oggetto che ho preso per terra, un sasso, in un momento in cui amavo il mondo, amavo la vita. Quello è il mio amuleto. Il mio amuleto funziona perché ricorda alla mia mente come esista l'amore. E a questo oggetto, qualsiasi, io devo essere legata dalla gratitudine, la gratitudine di essere viva. La gratitudine è un'emozione che è giocata su una serie di neurotrasmettitori che abbassano gli ormoni da stress, rendono il mio cervello molto più intelligente. Noi da felici siamo più intelligenti che da infelici. L'infelicità purtroppo è un marketing straordinario. L'odio acceca, si dice, luogo comune. È vero. Sono accecato dall'odio. Mentre quando sono sereno e felice io vedo porte dove prima pensavo ci fossero solo muri. Quindi l'amuleto, e ognuno di noi deve averlo, perché altrimenti c'è anche il rischio che mi funzioni quello che mi ha dato un altro, soprattutto se me l'ha fatto pagare caro. Perché ho detto, lo pago così caro, avrà un valore, ed è la mia mente che gli dà valore. Quindi diciamo che la letteratura fantasy riporta in superficie, ci fa riflettere su qualcosa di assoluto, che, da cui erano state prese molte distanze, da cui è giusto che si diventi oggetto di mercimonio televisivo, si prendono le distanze, che però è qualcosa in cui l'uomo deve fare sempre i conti. Arriviamo alla fine, all'ultima fase, Harry Potter. Ne abbiamo recentemente parlato, ma vale la pena ritornarci, perché in fondo, secondo me, è il punto di chiusura di questo discorso che stiamo facendo sulla nuova letteratura. Quelli che stai guardando sono ricordi. In questo caso riguardano un solo individuo. Questo è forse il ricordo più importante da me raccolto. Vorrei che lo vedessi. Vedi che alla fine torniamo sempre nel valore assoluto del ricordo. La memoria non è qualcosa che si estingue con l'estinzione della materia, ma nemmeno del neurotrasmettitore che la conteneva. La memoria rimane, permane, quindi è una grande responsabilità trasferire la memoria del passato. E non a caso oggi questo passaggio di memoria non passa più attraverso libri sacri, attraverso parole di passo, attraverso classi sacerdotali. Passa attraverso scrittori di fantasy come te. È possibile? Certo, e ho anche come la straordinaria Rowling. In questo passaggio ci ricorda l'infanzia di Voldemort. Voldemort è stato un bambino abbandonato e umiliato, come è stato Hitler nella sua infanzia, come è stato Saddam Hussein. Questo non vuol dire che noi dobbiamo diventare criminali, perché noi abbiamo sempre la possibilità di interrompere lo schema. E la, la, la possibilità di interrompere lo schema, come nella magia del fantasy, dipende da un'acquisizione di responsabilità. Quante volte ci siamo sbucciati le ginocchia da bambino? Stanno ancora sanguinando? No. La nostra norma è la guarigione, è la guarigione dei nostri corpi, ma anche la guarigione delle nostre anime. Quindi, mamma non mi voleva bene, papà era alcolizzato, hanno divorziato e... Ah beh, d'accordo, in tutte le famiglie sono successi catastrofi, ma siamo vivi, quindi i nostri genitori in qualche maniera ci hanno amato. Se noi teniamo l'attenzione concentrata su questo, recuperiamo tutta la fede in noi stessi che i nostri genitori non hanno potuto darci. La Rowling, in questo geniale passaggio, ci rappresenta in qualche maniera le infanzie di molti dittatori, le infanzie di molti torturatori, ma il problema è tutti coloro che hanno eseguito i loro ordini avevano avuto delle infanzie disastrose. Quindi è fondamentale che noi ci recuperiamo delle linee di cavalleria. Noi dobbiamo recuperarci la legge. La legge non deve concederci scappatoie. Non si uccide il disarmato, non si uccide colui che si è arreso, ci si ferma davanti al dolore degli altri. Se noi teniamo fisso questi, in qualche maniera noi non avremo bisogno di ricorrere a narrazioni che ricordino il Medioevo per evitare il disastro. Noi dobbiamo armarci in un'enorme fede dell'umanità, perché l'umanità è straordinaria. Negli ultimi 60 anni sono successi due miracoli. L'umanità è passata da 1 a 6 miliardi perché abbiamo abbattuto la fame, abbattuto le epidemie. C'è più magia in ognuno dei nostri giorni che un intero film fantasy. Di questi 6 miliardi, 5 mangiano tutti i giorni senza mangiarsi i bambini e 4 sanno leggere e scrivere. Sono tutti miracoli. Noi abbiamo la fantasy perché è una letteratura di eroi e noi abbiamo bisogno di essere eroi, perché noi dobbiamo fare l'ultimo miracolo, che ogni uomo, donna, bambino e bambina sulla superficie del pianeta sia l'unico proprietario della propria vita, della propria morte, del proprio destino e del proprio corpo. E noi ci riusciremo, noi ce la faremo senz'altro. Ma qualcuno di noi forse lascerà il suo sangue sul suolo, come è successo a Theo Van Gogh, può capitare. E quindi noi ricordiamo questa letteratura di eroi perché abbiamo bisogno di loro, dice Frodo, dice Sam a Frodo: coraggio, padron Frodo, si racconteranno di noi attorno ai fuochi e riprenderanno coraggio quando l'hanno perduto. Il messaggio finale del fantasy, di Harry Potter, del Signore degli Anelli, di Narnia, anche di Ranscray, il protagonista della mia saga, è: non abbiate paura, perché essere vivi è straordinario ed essere uomini è straordinario. Ecco, noi abbiamo fatto questa trasmissione che potrà esservi sembrata in alcuni punti forse un po' pesante da sopportare, perché esistono anche quegli aspetti dell'umanità. Esiste la necessità di trasferire anche le possibilità di elaborare quegli aspetti alla propria progenie. Esiste anche la possibilità che il 7 gennaio, quando Natale è finito, quando la Befana è passata, ci si ricordi comunque che abbiamo delle responsabilità verso i nostri figli. Alors tous deux on est reparti dans le tourbillon de la vie, on a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.